E allora sfumiamo velocemente la sigla, visto il breve tempo che avremo. E quindi una nuova puntata di Entropia Massima. E parleremo questa sera, siamo con Alberto Castagnolo, e quindi parleremo di economia e ambiente, quindi come al solito le nostre tante riflessioni su vari argomenti sparsi ma collegati dal filo rosso di Alberto. Bene, tanti argomenti, è preoccupatissima perché ha visto la lista delle cose che devo dire. E in effetti dipende dal fatto che l'ultimo mese, cioè gli ultimi 30-35 giorni, ci sono state svariate notizie, sia sul lato catastrofico, diciamo, nel senso dei guai che continuano a verificarsi, e sia su qualche tentativo di mettere mano al problema. Non sono ancora soluzioni, ma insomma ci sono delle indicazioni utili da tenere presente. Allora, il primo problema è la plastica, che, come credo avrete tutti visto, negli ultimi giorni specialmente è stata su tutti i giornali, cioè il tema è finalmente emerso, evidentemente perché le sue dimensioni ormai non sono più, come dire, nascondibili, e soprattutto perché l'Unione Europea ha cominciato a dire che vuole prendere delle decisioni, cioè di mettere delle proibizioni, e la prima parte della plastica che dovrebbe essere bloccata a scala europea dice: bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini. Allora, come questi materiali dovranno essere fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. Come capite, ancora non siamo, intanto il provvedimento ancora sta seguendo la procedura di approvazione, quindi non è assolutamente ancora operativo, però il problema è che tutta la parte più grossa, cioè il grosso delle buste, il grosso degli imballaggi, ancora sembra che non venga toccato. E però intanto cominciare a capire che almeno una parte della produzione e dei consumi di plastica devono essere messi sotto controllo è già un passo nella direzione giusta. I dati, ne abbiamo parlato varie volte nelle volte scorse. Tra l'altro la cosa più grave è che, oltre a essere in zone sempre più vaste dei mari e soprattutto in piccole dimensioni, cioè pezzettini piccolissimi di plastica, ormai stanno anche a profondità immense, cioè insomma, il mare contiene plastica, e soprattutto cominciano a esserci le prime ricerche che indicano che la plastica è perfino nell'acqua potabile. Cioè, in sostanza, i sistemi dei filtri che dovrebbe proteggere l'acqua potabile, almeno l'acqua potabile, non è sufficiente per le micro molecole di plastica, e quindi insomma stiamo sempre nei guai. Ovviamente mancano le indagini, mancano le ricerche su queste micro molecole, che cosa fanno in termini di sanità, cioè che effetti possono avere. Il problema è che un elemento industriale estraneo, come posso dire, non biologico, insomma, non naturale. In nessun senso, e quindi sicuramente dannoso per l'organismo. E questo è incredibile, pensare che è nell'acqua potabile, nel senso che l'acqua potabile, per, diciamo, per diventare tale, o comunque nel ciclo idrogeologico, passa attraverso una serie di, diciamo, filtri naturali, che sì, li chiamo terreno. Filtri, insomma, ci sono una serie di procedure, ci sono le sostanze, sì, a parte immense, poi il modo fatto dall'uomo, il filtraggio antropico, ma anche il filtraggio da parte dei sistemi naturali, proprio di pulizia di un acquifero. Certo. Questo vuol dire che queste micromolecole riescono a sopravvivere, riescono a mantenersi, diciamo, in acqua, in soluzione, per tempi lunghissimi e per filtri, diciamo. Certo. incredibile. Esattamente, ecco. Questo, quindi sia per dimensioni che per consistenza dell'oggetto. La seconda dato importante riguarda l'Antartide e cerco di darvi qualche dato, cioè tra il 1992 e il 2017, quindi non quest'anno, ha perso circa 2.700 miliardi di tonnellate di ghiaccio e a questa perdita corrisponde un aumento del livello del mare di circa 7,6 mm. Allora, la cifra dei miliardi di tonnellate è piuttosto impressionante, ne abbiamo già parlato quando si sono staccati quegli enormi iceberg che hanno dimensioni grandi quanto la Liguria, no? E però qui si parla di innalzamento del livello del mare. Oh, quando parla di 7,6 mm non parla, può sembrare poco, però non significa, è su tutti i mari, cioè l'insieme del mare, degli oceani, e quindi è una quantità di acqua che va ad aggiungersi alle altre quantità provenienti dagli scioglimenti dei ghiacciai. Quindi adesso, mentre finora l'attenzione si è concentrata soltanto sull'Artico, cominciano a emergere i dati relativi invece all'Antartide. E poi ci sono altri dati perché distingue le varie parti del continente, e quindi è assolutamente importante avere una valutazione dettagliata del sistema. L'altro elemento che mi sembra importante richiamare è il rallentamento dei cicloni. Allora, qua c'è qualcosa che io francamente forse ho commesso un errore, nel senso, nei giorni, negli incontri scorsi, perché io ero molto colpito dal fatto che i cicloni, specialmente gli ultimi, quelli che si sono verificati, diciamo, l'anno scorso, l'estate scorsa, in tutto il mare dei Caraibi, però sono arrivati fino in Texas. Quello che mi colpiva era, per ognuno di questi cicloni c'era un aumento della velocità del vento all'interno del ciclone, e questi mi sembravano sempre in aumento. Invece sembra che quei dati non è che fossero sbagliati, il problema è che quando il ciclone arriva poi su una zona ci mette parecchio tempo a sciogliersi, cioè a diluirsi, no? E che significa che ci sono delle piogge terribili. Allora il rallentamento significa questo, cioè significa che fa un percorso molto più lungo, e tutto questo percorso è caratterizzato da masse d'acqua che si spostano, diciamo, da una zona all'altra. E quindi in dati relativi invece, che questi li avevamo dati sulla quantità d'acqua caduta sul Texas e nelle altre regioni americane, erano impressionanti, e questo era il motivo, cioè questo, diciamo, rallentamento. Però non è il rallentamento dei venti, è l'aumento della pioggia che porta con sé il ciclone e la porta nel punto più lontano da dove arriva. Quindi questo dato è particolarmente grave e continua invece a caratterizzare i cicloni. Questo significa molto, nel senso che significa che prelevano vapore acqueo proveniente dai mari riscaldati, cioè è un indicatore molto importante, perché, come dire, rappresenta un intero meccanismo, no? Ed è quello che viene sottolineato da questi dati. Certo, ovviamente maggiore è il calore a cui sono sottoposti ovviamente gli oceani, la superficie d'acqua da cui il ciclone, sì, raccoglie l'acqua, giustamente è un indicatore importante dell'aumento delle temperature globali alla fine. Esatto. Un altro elemento ancora è il quarto elemento che vi voglio ricordare, che ci sono dei dati, c'è un'intera mezza pagina di dati con tabelle, dati dettagliati, di una cosa alla quale non si pensa mai, cioè la massa totale degli organismi viventi sul pianeta. Uh-huh. che probabilmente i geologi la sanno, conoscono queste. I geologi un po' di meno, si occupano di roccette, di cose morte, più biologi, però sì, insomma, vabbè, la biomassa. Allora, questa invece è proprio la parte viva, e quindi è la, tutte le, la biomassa di animali e esseri umani e di tutte le piante, eccetera, in gigatonnellate di carbonio. Allora, io non vi do i dati di dettaglio perché è troppo lungo, ma sono suddivisi addirittura per artropodi, pesci, molluschi, anelli di animali d'allevamento, esseri umani. Allora, la quantità della massa, della biomassa formata dagli esseri umani è lo 0,06% del totale. Quindi abbiamo questo piccolissimo nucleo che è il terzultimo posto, e siamo sopra soltanto ai nematodi, che sono i vermetti, insomma, vengono chiamati così i vermetti. Siamo solo un po' superiori ai vermi, ai mammiferi selvatici e agli uccelli selvatici, e quindi, come dire, siamo abbassiamo la cresta, una delle specie piccole rispetto al meccanismo complessivo del pianeta. È solo che, piccoli come siamo, stiamo facendo dei danni pazzeschi che incidono invece, per esempio, sulle percentuali di tutte le piante, di tutte le foreste e via dicendo. Allora, quindi questo dato però a questo punto esiste e fornisce tutta la, diciamo, il quadro e le proporzioni dalle effettive varie specie, gruppi di specie, perché poi sono più che, e quindi, e si parla di gigatonnellate, no? E sono diventati sono molto diminuiti rispetto alle gigatonnellate che si calcolavano presenti sul pianeta 100.000 anni fa. Quindi questo, allora, io non entro in questa tabella, che è un po' complessa da studiare, però è particolarmente, diciamo, utile, perché fa capire delle cose che sennò sfuggono, e la concordanza ci sfugge quasi completamente. Poi l'altro punto importante sono le alluvioni, cioè le alluvioni le abbiamo sempre citate in tutte le altre trasmissioni, continuiamo a doverle citare, e quelle che abbiamo rilevato, che abbiamo già tirato fuori, ce n'è una in particolare in Kenya, e sono sempre molto più gravi, cioè sono improvvise, massicce, e uccidono un sacco di persone, e specialmente quindi per quella del Kenya sono almeno 120 persone, no? E 250.000 persone, sto parlando del Kenya, sono state costrette a lasciare le loro case, e 8.500 ettari di coltivazioni sono stati distrutti. Quindi, contemporaneamente, una violenta tempesta di sabbia, che è un fenomeno analogo, ma diciamo con venti fino a 130 km all'ora, ha colpito gli stati del Uttar Pradesh e del Rajasthan nel nord dell'India. 121 le persone morte. Quindi, come capite, specialmente quando interessano certi paesi densamente popolati, questi fenomeni hanno un effetto sulle vite umane piuttosto consistenti, e noi continuiamo a trascurare completamente questo fattore nelle nostre analisi. Poi ci sono dei dati sulle emissioni provenienti dagli Stati Uniti, che ovviamente, direi, siccome è stato fatto quasi niente e il buon presidente americano sta continuando a non volerlo fare, a incentivare le emissioni, eccetera eccetera, sono aumentate dell'1,3%, eccetera. Quindi gli Stati Uniti rimangono saldamente nella posizione tra i due paesi più inquinatori a livello internazionale, e quindi anche questo, il dato è recentissimo, eccetera. Poi c'è un dato molto interessante, che però a me ha colpito, non so fino a che punto riesco a farlo capire. Il titolo dice: oltre 407.000 fulmini sono caduti sull'Europa in 48 ore. E spiega: la mattina tra sabato e quella di ieri in Europa sono caduti 400, attenzione, c'è il numero preciso, 407.198, con una punta di poco più di 100.000 tra il pomeriggio e la mezzanotte di sabato. I dati, e questo, sono stati rilevati da blitzortung.org, sito specializzato sulla localizzazione in tempo reale dei fulmini. Devo dire che sono rimasto con la curiosità di sapere con quali sistemi li fanno la rilevazione, soprattutto chi ha la pazienza di contarli uno per uno. Insomma, soprattutto il fulmine che cade sul mio palazzo, come lo... Non lo so, non ho capito, perché l'articolo nel dettaglio, no? Sì, sarà qualche da dati satellitari. Ma con ogni probabilità vengono registrati e poi li contano dopo, non lo so, insomma, oppure c'è un sistema... Quando no, quello sia automatico e deve essere da satellite, quando, con l'analisi quando delle immagini si incide da satellite sulla, diciamo, pellicola, per capirci, insomma, c'è un calcolatore che va bene digitale, però, sì, insomma, lo sappiamo. Però quello che vorrei sottolineare, questo invece, è che il numero dei fulmini sta aumentando, quindi è un fenomeno che noi, insomma, completamente trascurato, nessuno se ne occupa. Però fa parte del meccanismo del riscaldamento e del cambiamento climatico, perché evidentemente come dire, i rapporti delle strati diversi dell'atmosfera eccetera significa che mettono in moto dei meccanismi diciamo elettrici molto importanti e molto diffusi da un lato e molto concentrati nei momenti in cui si scatenano invece in termini di fulmini. Quindi non è un dato trascurabile o curioso, insomma, cioè evidentemente è uno dei dati che comincia a completare il quadro diciamo che hanno i meteorologi e tutti quelli che si occupano seriamente di clima. Poi in Pakistan invece c'è stato, col solito numero di più di 100 vittime, una ondata di caldo, questo già diciamo pochi giorni fa, quindi insomma le stagioni sono incrociate, ma evidentemente bisognerebbe capire quanto sono incrociate, se ci sono modifiche, e con una punta massima di 44 gradi, che è molto parecchio, proprio parecchio. Poi c'è invece un altro tema che conosciamo perché ne abbiamo parlato già tante volte, però purtroppo si ripresenta, cioè per l'ennesima volta in Africa è ripartita una epidemia di Ebola, quindi in particolare in Congo, e su questo adesso si vedrà, perché ormai hanno, devo dire, rispetto all'ultima volta che c'è stata un'epidemia di Ebola, non hanno semplicemente aspettato che la zona colpita morissero tutti, poi la chiudevano e aspettavano che morissero sostanzialmente. Già la volta scorsa, in cui erano coinvolti però 5 paesi africani dell'Ovest, questa hanno cominciato invece a isolare i pazienti, a fare tutta una serie di tecniche, e hanno cominciato a sperimentare dei vaccini. E infatti c'è un articolo, anch'esso molto dettagliato, che però dovrebbe essere un po' studiato e verificato. Io vi dico il nocciolo della questione. Cioè, in realtà esiste un vaccino contro l'Ebola, già sperimentato anche da qualche anno. Però, se ho capito bene, per alcuni anni, più di 5, nessuna, come dire, farmaceutica si è preoccupata di produrlo, cioè non è arrivato alla fase industriale, e Oggi però quello che non dice l'articolo, e quindi è per questo che dovrò studiare un po' di più, il problema è se in questo momento si comincia a disporre di riserve di vaccino già verificato, perché i risultati, che quelli che sono stati resi noti di quelli di qualche anno fa, erano estremamente positivi. Non so, 23 morti, cito così a memoria, su 5.000 pazienti monitorati, che per l'Ebola, che invece è una cosa terribile, che colpisce medici, pazienti, insomma c'è un giro continuo di contagio, e quindi invece una proporzione di questo genere significa un vaccino particolarmente funzionante, insomma. E però il problema sono le scorte, il problema è fare arrivare le scorte nella zona del Congo, che come sapete non è molto, mai molto tranquilla in varie regioni, e quindi far arrivare i vaccini eccetera potrebbe essere difficile, poi incontra degli ostacoli anche derivanti dalla situazione militare e politica dell'area, e però vedremo come la cosa purtroppo si svilupperà. Allora, scusami, facciamo una piccolissima pausa musicale, brevissima, perché poi ci rimane poco tempo, ma ci prendiamo piccola pausa e a tra poco con Entropia Massima. E questa era una fantastica Autumn Leaves di Wynton Marsalis e Sarah Vaughan. Consiglio di vedere il video con una linguaccia di Sarah Vaughan fantastica, intorno agli anni 80 probabilmente. Ritorniamo quindi evidentemente in voce con Entropia Massima, con Economia e Ambiente. Riprendiamo i vari pezzettini collegati dal filo rosso di Alberto. Allora, l'altro tema è acqua. Oh. E ci sono tre informazioni importanti. Un articolo che fa un elenco di paesi che sono in carenza d'acqua, cioè in generale, nel senso che denunciano, sono situazioni diverse, e questo elenco purtroppo è piuttosto nutrito, no? Quindi è una carenza d'acqua, se ho capito bene l'impostazione dell'articolo, è una carenza d'acqua non dipendente da diciamo condizioni stagionali, ma proprio una carenza di acqua disponibile sul territorio, che è un po' diverso. E questo è un primo passaggio. E poi ci sono due notizie, una sul fiume Murray in Australia, che ha sceso il suo livello al di sotto di qualunque livello di guardia, e quindi stanno disperatamente cercando di capire come possono reintrodurre delle fonti oppure di cambiare le dighe, eccetera eccetera, che è uno dei, l'Australia non è che brilla, cioè ci stanno vaste aree desertiche eccetera eccetera, e questo fiume è particolarmente importante. Stesso problema in Israele, dove c'è il lago Tiberiade, quindi credo che stia nella zona del Vangelo, tanto per capirci, cioè Nazareth eccetera eccetera, e stanno, hanno deciso di reintrodurre dell'acqua nel lago, perché evidentemente tutta la diciamo i canali di adduzione, gli affluenti eccetera non sono sufficienti, e quindi in Israele hanno cominciato a desalinizzare l'acqua del mare e trasportarla fino al lago, che è probabilmente un costo pauroso, però evidentemente siccome dal lago poi dipende tutta l'agricoltura dell'area e via dicendo, devono fare questa cosa. Però vorrei sottolineare che questo tipo di interventi sta diventando sempre più frequente e tenderà a diventare sempre più frequente nell'immediato futuro. Poi c'è una notizia, questa non so se considerarla buona o cattiva, però intanto ve la dico e poi discutiamo. Cioè hanno fatto un istituto svedese, ha fatto, che fa ricerche ambientali, ha fatto l'analisi del valore ambientale degli oggetti comprati di seconda mano, quindi venduti e comprati di seconda mano, e hanno cominciato a calcolare, hanno fatto evidentemente dei sondaggi, hanno tirato fuori una serie di oggetti tipo che vengono riciclati, che vengono rimessi in circuito, e hanno calcolato quanta CO2, quante emissioni di CO2 si risparmiano, no? Che insomma le cifre non sono particolarmente rilevanti, ce le ho, ma insomma è inutile, però il discorso è che è importante capire il meccanismo economico, perché il riciclo è qualcosa che si sottrae alla logica del sistema dominante, non è che sia proprio fuori del mercato, però insomma significa non accettare l'uso e getta e non accettare le logiche di mercato che spingono a comprare sempre oggetti nuovi e via dicendo. E viceversa sarebbe tutti quelli che magari in questa fase ancora solo per costrizione, cioè non avendo abbastanza soldi per comprare oggetti nuovi, si rifugiano negli oggetti già usati, però contemporaneamente fanno una buona operazione dal punto di vista ambientale. Quindi questo bisognerà studiarlo meglio, questo meccanismo, però è particolarmente interessante. E poi si cominciano ad avere dei dati interessanti per quest'anno, nell'ultimo anno, per le energie alternative, Cioè, in sostanza, sembra che in molte situazioni il costo per kilowattora prodotta sta diminuendo anche del 60%. Cioè, c'è una specie di salto tecnologico, evidentemente, cioè dal punto di vista della diffusione, delle reti e via dicendo. Quindi è molto interessante, e bisognerebbe però poi applicarlo alle strategie per aumentare gli impianti solari e via dicendo. L'altra notizia è, l'avevamo prevista, cioè, però il problema è evidentemente scoppiato. In sostanza, la Cina ha cominciato a comprare in Cile il litio, cioè questa sostanza che è essenziale per le batterie nuove, per le nuove batterie. Perché questo litio non è che ci sono 3 o 4 posti nel mondo dove ci sono questi giacimenti, ci sono questi salar, cioè questi laghi salati, però è una quantità limitata. Finora la logica si è mantenuta semplicemente perché come dire, il numero delle auto elettriche sta aumentando, ma insomma non è ancora così. Il giorno in cui un paese come la Cina comincia a produrre auto elettriche su grande scala, ci sarà immediatamente una carenza di litio, e soprattutto in ogni caso ci sarà la sparizione dei luoghi naturali in questi paesi. Cioè, in sostanza, è un nuovo settore dell'estrattivismo, come viene chiamato nella letteratura sul sistema capitalistico, cioè è un'altra materia prima che si continua a estrarre dal suolo, come se fosse limitata, invece non lo è. Dopo il silicio, ovviamente. Quindi, l'altro elemento importante sono 2 indicazioni che ci sono per l'Italia. Questo le abbiamo già dette alcune volte, quindi insomma le cito così un po' son. Però in sostanza c'è un'ulteriore indagine che cifra, cioè mette le cifre accanto alla rete idrica italiana, che l'articolo definisce un colabrodo. Quindi è inutile vi annoio con il numero dei buchi che ci sono, insomma la realtà è quella, l'abbiamo denunciata anche varie volte, però è ancora in piedi, cioè non è stato fatto niente per ridurre, o quasi niente per ridurre, le perdite, le dispersioni durante il trasporto. E la stessa cosa per un altro tipo di meccanismo, cioè fiumi, laghi, cioè tutta la parte correnti, acque non correnti, quindi laghi, sono pieni di pesticidi. Cioè tutte le indagini continuano a far capire che siamo sempre più pieni di pesticidi, e questo è un disastro, cioè perché, come dire, mangiamo i pesci, mangiano i pesci, cioè è un altro di questi circuiti mostruosi che però per l'Italia è ancora intatto e nessuno ancora si è, e soprattutto per esempio in Puglia di recente hanno messo in distribuzione, con una legislazione apposita, tutte quelle sostanze chimiche che sono dannose per le api e altri insetti, ecco, che però è un pesticida, eccetera. Quindi, però ancora noi continuiamo a operare come se non ci fossero queste controindicazioni. Poi un'ultima notizia, e poi mi sembra che possiamo chiudere, se ci siamo. Possiamo qualche minuto, sì, qualche ancora? Minuto in più, sì. Va bene, allora c'è 2 aspetti che volevo ricordare, anche qui senza entrare troppo in dettaglio. Cioè, hanno fatto delle indagini sulla pesca mondiale, cioè sulle attività di pesca, e molte volte, secondo questa ricerca, che a me suscita dei dubbi ma poi ve li dico, secondo questa ricerca molte situazioni di pesca non sono convenienti, cioè sono effettuate in perdita, no? E quindi dipendono moltissimo dagli incentivi statuali per la pesca, e soprattutto dipendono per esempio dal fatto che alcuni paesi danno le licenze di pesca per esercitare la loro sovranità sulla parte delle 12 miglia di mare. Quindi lo scopo non è pescare, ma lo scopo è essere presenti e impedire che il paese vicino si avvicini, eccetera. Però il mio dubbio nasce da una cosa che credo, almeno questo da alcuni dati che ho, credo che una buona parte della pesca non viene rilevata, cioè avviene in forme magari apparentemente marginali, ma poi non lo sono, oppure c'è un forte sfriso, diciamo, c'è una forte quota che in realtà non viene dichiarata in dogana quando entra in porto e via dicendo. Quindi questi dati, quindi, evidentemente o sono, come dire, appositamente tenuti bassi, cioè in maniera da avere più incentivi, insomma, però non credo che non siano particolarmente significativi. Però a livello internazionale invece si sostiene che c'è questo problema e bisognerebbe intervenire. Poi c'è un altro, due temi ancora. Uno è una ricerca fatta su 40.000 aziende agricole. È un po' complicato il testo, ma ve lo sintetizzo. Cioè, hanno fatto, sono normali aziende, quindi non sono aziende biologiche, sono normali aziende, non sono aziende estensive, quindi non è soia o cose di questo genere, sono normali aziende agricole. Le hanno studiate e hanno visto che in tutti i casi in cui si è proceduto a una cambiamento nei metodi di coltivazione, nel tipo di semi usati, nelle piante, diciamo, coltivate, raccolte, ogni volta che ci sono stati questi meccanismi si erano corretti, diciamo, se erano, la formula di intervento era giusta, c'era un aumento della produzione molto rilevante.